Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi e domani sarete con me, poi tornerà Sebastiano Barisoni. Vi vedo già caldi via SMS, intervenuti durante la trasmissione di Oscar Giannino a parlare di Grecia, che sarà il tema centrale di tutta questa puntata di Focus Economia. Come ovvio che sia, l'accordo raggiunto nella notte dopo il vertice dei capi di Stato e di Governo più lungo della storia, 17 ore, e la mattina, giusto in tempo prima dell'apertura delle borse, appunto l'annuncio dell'accordo arrivato dai vertici europei. Un accordo che evidentemente pone una serie di problemi politici, innanzitutto per Alexis Tsipras, che in questo momento appare come uno sconfitto, perché la sostanza dell'accordo firmato nella notte e che Tsipras ha sottoscritto è una sostanza che non si discosta molto da quello stesso documento sul quale ha chiamato i suoi elettori e il popolo greco a votare, e al quale il popolo greco ha risposto molto nitidamente e con un'ampia maggioranza no. Appunto, non si discosta moltissimo, salvo essere un po' più generico, contenere qualche apertura, questo soprattutto nelle dichiarazioni molto più che nel testo stesso, su un riscadenziamento o eventualmente un taglio del debito. E sicuramente è un documento che contiene un intervento pesante. Si parla di un'ipotesi di intervento del fondo salva stati tra gli 82 e gli 86 miliardi di euro, ma contiene anche una richiesta di intervento in tempi strettissimi, una serie di riforme e di modifiche, per esempio dell'IVA, del sistema delle pensioni, che dovranno essere effettuate nelle prossime 48 ore. Quindi Alexis Tsipras, il premier greco, al momento sicuramente appare come uno sconfitto. Forse vincenti non si possono definire nemmeno i vertici europei a questo punto. Prendetela come un'opinione personale, anzi vi chiamo al confronto se volete al 349-238-6666, perché quella alla quale abbiamo assistito in questa notte da molti viene interpretata come un'umiliazione del governo greco. Così la interpreta per esempio la sinistra del partito di Tsipras, la sinistra di Syriza, Parlamento greco, che tra l'altro sarà chiamato a votare tutto questo, il che potrebbe generare una serie di problemi politici che potrebbero condurre innanzitutto ad una maggioranza diversa da quella della quale attualmente gode la fiducia Tsipras, e poi eventualmente, a quanto pare, a nuove elezioni, anche perché Tsipras continua ad avere una certa popolarità in Grecia. Si diceva non si possono dire vincenti i vertici europei, perché sarà piuttosto difficile che un pezzo delle popolazioni europee, soprattutto quelle che si riconoscono in una sorta di euroscetticismo o quantomeno una sorta di perplessità nei confronti di come viene gestita l'Europa oggi, non sentano come una sorta, come si diceva, di umiliazione il comportamento che hanno avuto i vertici europei, i governi, in particolare i tedeschi, nei confronti della Grecia. Qualcuno ha parlato di colpo di Stato. Beh, la parola è oggettivamente un po' forte, non mi riferisco solamente a Beppe Grillo, mi riferisco per esempio all'hashtag This is a Cop, che fin da ieri è stato tra i trending topic di Twitter per tutta la giornata. Quindi questo è un colpo di Stato. È un po' difficile dirlo, perché a tutti gli effetti a sottoscrivere l'accordo c'era un premier eletto. Certo, è un segnale forte, è un accordo per certi versi molto pesante, e che peraltro non è ancora definitivo, perché alle riforme dei greci, questo dice il testo dell'accordo, all'attuazione delle riforme da parte dei greci è subordinata l'apertura delle discussioni su un nuovo piano di salvataggio per la Grecia. Ci sono poi tutte le reazioni politiche anche italiane che potete immaginare, a partire da quella del Presidente del Consiglio, quella di Grillo l'abbiamo già citata, cioè quella di Matteo Salvini. Ci sono tutte le reazioni europee, chi ha svolto quale ruolo all'interno di questa discussione tra i capi di Stato e di Governo, con la Francia e a seguire l'Italia, che si sono schierate abbastanza apertamente a favore di Atene, proprio discutendo sul fatto che si stessero pensando ai provvedimenti oggettivamente punitivi. E poi dall'altra parte evidentemente ci sono anche delle responsabilità greche, per quanto è stata tirata in lungo la vicenda e per quanto forse avrebbero potuto ottenere qualcosa di più stringendo i tempi e dando anche in certi casi una dimostrazione che i vertici europei hanno ritenuto fastidiosa, non ne stiamo dando un giudizio noi, di strafottenza, insomma, se non più morbidamente di arroganza. 349-238-6666 per commentare anche questo e per parlarne. Ne parleremo con Vittorio Daroldi, inviato ad Atene del Sole 24 Ore, per capire soprattutto quali saranno le conseguenze politiche. Ci confronteremo poi con Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, per come la conoscete, voce molto critica su come si è mossa l'Europa in questi anni, e vedremo che cosa ne dice. E l'unico altro argomento che ci resta fuori, beh, evidentemente è quello dei mercati, con Milano che è positiva, un po' peggio rispetto a come andava stamattina, più 0,97% per il FTSE MIB, più 1,02% per il FTSE All Share. Bene il mercato dei titoli di Stato, con le altre borse europee che fanno meglio, ma Milano, lo ricordiamo, era quella che aveva beneficiato di più di tutte le indiscrezioni del giorno prima sull'andamento della trattativa per la Grecia. Parigi guadagna il 2,11, Francoforte l'1,5%, sul listino bene Ferragamo che guadagna il 4,3, Mediolanum il 3,3, Toz il 2,9, positive un po' tutte le banche, Popolare di Milano su tutti che guadagna il 2,8%. Sono poco i titoli in negativo, tra questi proprio un bancario, il Monte dei Paschi meno 1,28, ST Microelectronics lo 0,69, Prismia allo 0,45%. L'altro argomento che toccheremo oggi, dedicheremo uno spazio a un settore industriale, quello dell'edilizia. Oggi Lance, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, ha presentato un suo rapporto nel quale ricorda che dall'inizio della crisi ci sono stati 800.000 posti di lavoro in meno nel settore, che gli investimenti nel 2015 vengono stimati ancora in calo, alla faccia della supposta ripresa, meno 1,3%. Dall'inizio della crisi sono uscite dal mercato 80.000 imprese e, dicono i costruttori, a questo punto ci vuole l'intervento pubblico per far ripartire gli appalti, altrimenti il settore non ce la fa. Segnalano, tra l'altro, e questo è un altro elemento di grandissima importanza, che per quanto riguarda i pagamenti della pubblica amministrazione, vi ricordate quelli che avevamo sbloccato con una serie di interventi legislativi e che massimo 60 giorni, bene, siamo intorno ai 6 mesi di media, con 8 miliardi che mancano all'appello. Di tutto questo parleremo oggi. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. Già vi vedo scatenati sulla Grecia, ci scrive qualcuno, sì, è un premier eletto che però ha votato il contrario di quello che aveva promesso per essere eletto. Però tant'è, poteva prendere un'altra strada e poteva ribaltare il tavolo e magari decidere di uscire dall'euro con conseguenze impreviste, incognite, probabilmente drammatiche, ed essere magari ricordato, magari, oppure no, come la persona che ha distrutto definitivamente il paese. Ha scelto un'altra strada. E aveva un mandato popolare comunque. Da rifletterci comunque, quasi più a livello politico che a livello economico, evidentemente. Le notizie in breve, dunque: l'oro è in flessione sui mercati asiatici a $1160,85 l'oncia, quotazione in calo dello 0,3%. E petrolio in calo anche oggi a New York a 52,16 dollari al barile. Da segnalare a proposito di luoghi nei quali passa un bel pezzo delle materie prime energetiche di questo pianeta, l'Iran. Magari è un tema che riusciremo ad approfondire domani, se arriverà questo benedetto accordo sul nucleare, perché attesa per questo pomeriggio una dichiarazione del ministro degli esteri francese Laurent Fabius sui negoziati sul dossier. Mentre sarebbe atteso, ma anche qua ci sono indiscrezioni, conferme, dettagli che escono, una dichiarazione del presidente iraniano Hassan Rouhani. È atteso per le 19:30 di questa sera, ora italiana. La notizia arriva dall'agenzia ufficiale IRNA, quindi gli diamo, come dire, su queste cose una certa credibilità, anche perché se scrivono qualcosa di sbagliato finiscono male. Vedremo, ne vedremo, uno sblocco interessante anche dal lato dell'embargo, ma come dicevo ne parleremo domani. La vicenda greca, la notizia è stata data per primo da Charles Michel, il premier belga, su Twitter, ha detto che c'è l'accordo, e poi dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, sempre su Twitter, l'accordo è stato raggiunto all'unanimità, tutto pronto per andare al programma ESM, con riforme serie e sostegno finanziario. Corso l'Eurogruppo, che dovrà tra l'altro decidere come aiutare la Grecia con un finanziamento ponte. Cosa contiene questo accordo? Bene, abbiamo parlato ampiamente anche nei giornali radio, si è parlato un'ipotesi di finanziamento tra gli 82 e gli 86 miliardi, ma sui contenuti arriveremo tra poco. Un cambiamento delle regole per quanto riguarda l'IVA, con la famosa questione delle isole in ballo. Detto ciò, su questo è abbastanza generico il documento europeo. Riforma del sistema pensionistico. Importante anche rendere indipendente, completamente indipendente, l'Istituto di Statistica. Si chiede, più che una riforma del mercato del lavoro, una riforma della contrattazione, del sistema di contrattazione. Alcune di queste sono a brevissimo termine, come per esempio una riforma del codice civile entro il 22 di luglio. 9 giorni per riformare il codice civile. Premier greco Alexis Tsipras dice: abbiamo evitato il trasferimento dei nostri beni all'estero, abbiamo inviato un messaggio di dignità al mondo, abbiamo lottato duro a Bruxelles e ora lo faremo in Grecia. Il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker: abbiamo evitato l'uscita della Grecia dall'euro, era il nostro primo obiettivo. La Commissione europea ha insistito sul fatto che non avrebbe accettato una Grexit, e la Grexit non ci sarà. E dunque, per quanto riguarda la sostanza, siamo soddisfatti del risultato che siamo riusciti a raggiungere. Non credo che sia un accordo umiliante, dice ancora Juncker, non credo che altri europei perderanno la faccia, è un tipico accordo europeo, prendetela come pensate di prenderla. E dice: da questo accordo non ci sono né vincitori né vinti. Nell'accordo è compreso, lo specifica anche il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem, è previsto che si privatizzino asset di Stato per realizzare profitti per 50 miliardi complessivamente, 25 25 miliardi devono andare alla ricapitalizzazione delle banche, degli altri 25 una metà serve ad abbattere il debito, l'altra metà serve per investimenti. La Germania deve andare al voto, c'è una serie di parlamenti europei che devono votare, tra questi quello tedesco, il Bundestag probabilmente voterà venerdì. Il presidente del Consiglio Renzi dice non bisogna sottovalutare l'accordo, ma no ai trionfalismi. Un accordo che io giudico importante, non credo che ci sia da brindare con toni trionfalistici e non credo viceversa che ci sia da avere un atteggiamento riduttivo. È stato un accordo che naturalmente ha riguardato la Grecia, il suo presente immediato, il suo futuro, ma credo che abbia interpellato in profondità il senso profondo del senso dell'Unione Europea, non già per le conclusioni o la possibile conclusione, ma proprio per il metodo di arrivare a una soluzione, per la lunga discussione che lo ha accompagnato. Nessuno dei leader europei, nemmeno Renzi, piuttosto pimpante, del resto sono state 17 ore di trattative, abbiamo visto le conferenze stampa di questa mattina, erano distrutti. Dice Renzi, un accordo importante che in molti momenti della nottata non è apparso scontato, la rottura sarebbe stata insensata e si è rischiata questa notte l'uscita della Grecia dall'euro. La reazione dei mercati, lo spread tra BTP e Bund questa mattina è precipitato nell'imminenza dell'annuncio dell'accordo a 117,4 punti, poi è risalito a 130 punti base. Sono andate bene anche le aste di titoli di Stato, collocati BTP a 3, 7, 15 e 30 anni. Ma come si diceva e come qualcuno fa notare via SMS, dice, visto che la borsa non è che festeggi così tanto, in realtà è un accordo che c'è in linea di massima. E però non è ancora tutto scritto e probabilmente i mercati dopo un primo momento di euforia hanno deciso di mettersi un attimo alla finestra, vedere cosa farà il Parlamento greco nei prossimi due giorni, che cosa succederà a livello politico in Grecia, come voteranno gli altri parlamenti europei, come verrà implementato questo accordo. Ci sono dei dati interessanti che arrivano oggi dalla Banca d'Italia, dall'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, che parlano di riciclaggio e corruzione. Le minacce di riciclaggio in Italia, scrive l'unità informazione finanziaria, sono significative a causa della diffusione della pervasività della criminalità organizzata, della corruzione e dell'evasione fiscale. Nel 2014 rispetto al 2013 ci sono state 7.000 operazioni sospette in più segnalate, è circa un 10% in più. Che può voler dire anche semplicemente che sono state, ci sono più segnalazioni di operazioni sospette, quindi potrebbe anche non essere una cattiva notizia. E però, scrive il rapporto, gli uffici della pubblica amministrazione particolarmente esposti all'incidenza della corruzione per appalti e finanziamenti pubblici mostrano ancora scarsa sensibilità per l'antiriciclaggio, malgrado siano sempre stati ricompresi nel novero dei soggetti obbligati alla segnalazione, e questo li rende più vulnerabili. Altri due punti dalla Banca d'Italia, poi verremo a parlare di Grecia un po' più approfonditamente. La corruzione rappresenta una minaccia preoccupante per il sistema economico sociale, dice la Banca d'Italia. La diffusa percezione del fenomeno mina la fiducia del cittadino nelle istituzioni e nella politica. E poi sul finanziamento al terrorismo, che presenta capacità mimetiche, così vengono definite, che rischiano di nascondere la reale entità della minaccia. E veniamo dunque a questo primo tema di giornata e che percorrerà un po' tutta questa puntata di Focus Economia. Inevitabilmente, oltre che praticamente tutta l'edizione, o quasi tutto, un bel pezzo dell'edizione del Sole 24 Ore di domani in edicola, che dedica 10 pagine lo speciale Grecia Euro per approfondire gli effetti a livello politico, economico e sui mercati del nuovo piano di salvataggio della Grecia. Vediamo di riuscire, di provare ad anticipare qualcosa. Non so cosa intenda il nostro ascoltatore quando mi scrive che siamo tutti capaci di salire sul carro dei vincitori, ma la Grecia è stata messa KO. Ripeto, qua l'impressione è che parlare di vincitori e vinti in questa situazione, dopo una notte così, così dura, i cui strascichi li continueremo a sentire per i prossimi mesi, è un po' tranchant. Fatico a vedere il bianco e il nero, ma probabilmente sono io. Chissà come la vede Vittorio D'Aroldi, inviato ad Atene del Sole 24 Ore. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, come la vedi? È tutto bianco o nero o ci sono più sfumature, le famose sfumature di grigio? Sì, esattamente. La situazione è molto più complessa di quella che appare. È sicuramente la crisi peggiore dalla caduta del muro di Berlino, la crisi europea peggiore. Sono adesso in Parlamento, nel Parlamento dove si cerca di ricucire e di trovare una nuova maggioranza che garantisca che venga approvato questo maxi piano che è stato appunto faticosamente partorito nella notte e che ha completamente cambiato la situazione. Il primo ministro è appena tornato, sta cercando di rinsaldare la sua maggioranza che però rischia di dividersi in due, perché c'è un'ala che naturalmente non ha nemmeno votato il suo piano 2 giorni fa, figurarsi questo che è molto peggiore. Quindi c'è un rischio di spaccatura di Siriza e sono a questo punto importantissimi i voti di sostegno di Neodemocrazia, del centrodestra, del PASOK, il Partito Socialista, e di Topotami, il Partito Liberale. Tutti questi sono disposti a dare il voto per far passare questo piano e naturalmente evitare che le banche collassino e con questo il paese vada in bancarotta. Allora, cosa chiederanno in cambio? Sì, ecco, questo è il punto. Però, Vittorio, noi adesso ci dobbiamo prendere una pausa di pochi istanti, pochissimi minuti, e poi proprio su questo ti vorrei, innanzitutto su cosa chiederanno in cambio, in secondo luogo quanto a questo punto sia a rischio lo stesso governo Tsipras e quanto Tsipras a questo punto sia disposto a portare il paese a nuove elezioni, con tutto quello che questo comporta in termini di, ancora una volta, rischi di instabilità di mercato e così via. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Focus Economia. Qualcuno ci scrive... Dubito che in caso di nuove elezioni vengano confermati gli aiuti, ovvio che l'unica soluzione è un governo di unità nazionale. Abbiamo in linea Vittorio D'Arold del Sole 24 Ore, inviato ad Atene. Oddio, va bene che gli rimandano la troica, Vittorio, insomma va bene che li mettono sostanzialmente sotto tutela, tanto che prima di farle approvare al Parlamento e renderle pubbliche, le riforme dovranno farle vagliare dall'Europa. E però che addirittura interrompano un programma di aiuti perché si va al voto mi sembra un po' troppo, forse, no? Vittorio? Sì, sono fuori dall'ufficio di presidenza di Zoe Costantinopolo, che è la presidente della Camera, sta facendo appunto l'agenda dei lavori, sta organizzando un'agenda dei lavori con tutti i capi dei vari partiti per affrontare domani il primo passo per approvare questo maxi emendamento che dovrebbe appunto prevedere tutte le riforme che sono state chieste per concedere il via libera al fondo per salvare soprattutto le banche che sono in questo momento agli sgoccioli. Ci sono già dei bancomat esauriti, quindi la situazione è abbastanza una lotta contro il tempo. E dal punto di vista politico Tsipras però mantiene una popolarità molto elevata, quindi c'è questa strana dicotomia di un partito diviso, di partito di maggioranza diviso che chiede aiuto agli altri partiti, ma la popolarità del Premier resta abbastanza elevata, si è un po', diciamo così, scalfita, ma non ha subito quel colpo che molti potevano aspettarsi. L'altra vicenda è che i partiti che vanno in soccorso del governo chiedono che resti Tsipras primo ministro, quindi non vogliono un premier tecnico come invece Tsipras era pronto a concedere per in qualche modo togliersi di mezzo, vogliono che invece Tsipras ci metta la faccia rispetto a questo questa ennesima medicina di austerity, perché in qualche modo chiedono che sia lui a subire gli effetti di questa austerità che lui aveva invece in campagna elettorale chiesto esattamente di eliminare. Quindi è un gioco molto complesso all'interno, ma ormai tutti sono convinti che se non si fa questo piano il paese non si salva, non esce da questo angolo in cui si è infilato dopo 6 mesi di negoziati senza frutto. Vittorio, c'è una questione che circola in realtà fin da stamattina, in realtà fin dai giorni scorsi, che è quella che dicevamo, l'ipotesi che si vada a nuove elezioni. Una serie di elementi concorrerebbero ad un'ipotesi di questo genere, non ultimo la popolarità della quale gode Tsipras e della quale ci parlavi proprio un istante fa. Il fatto che goda di popolarità potrebbe consentirgli, come dire, di far cadere il governo, di andare ad un nuovo voto ed ottenere un nuovo mandato. Pensi che sia un'ipotesi in campo, possibile, probabile, con che tempi? Sì, tutto questo però avviene naturalmente dopo questo passaggio parlamentare che dovrebbe approvare questo diciamo maxi emendamento, questo grande programma di aiuti nel tempo imposto dalla Troika, quindi mercoledì. Questo è il tempo ultimo. Dopodiché gli scenari si fanno naturalmente più aperti, perché Tsipras potrebbe andare alle elezioni anticipate perché confida nel fatto che comunque potrebbe avere una nuova maggioranza a suo favore, ma potrebbe scegliere i deputati, perché la Costituzione greca gli consente, se va al voto prima di un anno, sarà lui a scegliere i candidati e quindi potrebbe liberarsi, tra virgolette, di tutti quelli i dissidenti che a quel punto dovrebbero fare un nuovo partito alla sua sinistra, e quindi lui riprenderebbe un ruolo più centrale. Questa è l'ipotesi, diciamo così, che qui chiamano alla Andreas Papandreou, cioè quel personaggio a cui sembra si ispiri Tsipras come suo leader, come sua appunto figura carismatica di riferimento. Il problema è che Papandreou era in un momento in cui l'economia andava bene, c'era da distribuire dividendi, oggi invece c'è da distribuire austerity e sacrifici, quindi è un paragone che forse andrebbe non regge. Sì, non regge un granché. Io ti ringrazio, grazie a Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore ad Atene. Noi non abbiamo concluso qua il nostro capitolo sulla Grecia e anzi andiamo avanti, vogliamo sentire qualche voce, poi ci prenderemo una pausa, 10 minuti, parleremo di un altro argomento, parleremo del settore delle costruzioni. Vi accennavo poco fa di dati piuttosto pesanti anche per quanto riguarda il 2015, poi nella seconda parte ci ritorneremo, parleremo di mercati, parleremo delle borse e poi andremo ad un'analisi più profonda di quello che è successo a livello europeo, cioè al di là di quello che succede internamente alla Grecia, c'è quello che succede a livello europeo ed è la questione che vi ponevo all'inizio e ponevo alla vostra attenzione. Possiamo dire che qualcuno abbia vinto davvero in questa situazione, oppure alla fine è stata anche questa, tutto sommato, una sconfitta per l'Europa, insomma, è un segnale negativo anche su come le decisioni vengono prese nel vecchio continente. Andiamo a sentire però intanto qualche voce della notte, a partire dal più volte evocato Alexis Tsipras. Abbiamo inviato, dice, un messaggio di dignità al mondo. È stato un accordo difficile, ma ci ha impedito il trasferimento del patrimonio pubblico all'estero, ha impedito la crisi finanziaria e il crollo del sistema finanziario. Infine, siamo riusciti in questa dura battaglia per ottenere la ricostruzione e la ristrutturazione del debito, e un finanziamento per il medio termine. Sapevamo che non sarebbe stato un compito facile, ma abbiamo lasciato un'eredità molto importante, aver messo in primo piano la necessità del cambiamento in tutta Europa. La Grecia continuerà a lottare e continueremo a combattere per tornare alla crescita, riconquistare la nostra sovranità nazionale. La nostra sovranità popolare ha vinto. Il messaggio della democrazia, il messaggio di dignità che ha inviato in tutta Europa e in tutto il mondo. Questa è l'eredità più importante. Poi ognuno la racconta come vuole e, come ovvio, la racconta come vuole al suo elettorato. Detto ciò, Tsipras, nel file audio che vi abbiamo fatto sentire, parlava della possibilità di un taglio del debito. Tutto questo, sia chiaro, nel documento europeo non è minimamente citato. Nel documento europeo si apre alla possibilità eventuale di un riscadenzamento del debito, ma solo quando tutte le condizioni saranno soddisfatte. E comunque non è un taglio del debito. Sentiamo ancora Tsipras. Abbiamo affrontato decisioni difficili. Abbiamo ingaggiato una dura battaglia in questi sei mesi e abbiamo lottato fino alla fine per ottenere ciò che è meglio, un accordo che consentirà al paese di stare in piedi e al popolo greco di continuare a combattere. Abbiamo affrontato decisioni difficili in situazioni difficili. Abbiamo preso la responsabilità della decisione al fine di impedire richieste più estreme da parte dei conservatori più estremi dell'Unione Europea. Per riassumere, perché qualcuno ce lo chiede, i contenuti di questo piano, in breve. Allora, si sta ipotizzando che alla Grecia vengano forniti aiuti per 82, tra gli 82 e gli 86 miliardi. In cambio alla Grecia si chiedono una serie di cose, una serie di riforme vanno fatte entro sostanzialmente 48 ore. Tra queste, una risistemazione, per così dire, del regime dell'IVA. Non si entra nel dettaglio, però è chiaro che il riferimento è all'innalzamento dell'IVA in una serie di settori e al cambio del regime per alcune isole, presumibilmente quelle più ricche, quelle dove c'è turismo. Si chiede alla Grecia di assicurare l'indipendenza dell'Istituto di Statistica più nettamente di quanto non avvenga adesso. Si chiede alla Grecia di istituire un fondo da 50 miliardi dove finiscono una serie di asset, una serie di beni della Grecia che servono in sostanza da garanzia. 25 miliardi destinato a pagare la ricapitalizzazione delle banche greche, gli altri 25 miliardi, una metà ad abbattimento del debito e l'altra metà servirà invece per investimenti. Riforma del codice civile entro di procedura civile entro 10 giorni. Riforma delle pensioni, anche questa entro 48 ore, e tagli semiautomatici alla spesa, una sorta di clausola di salvaguardia per come le conosciamo noi. Questo è il punto sul quale torneremo più avanti nella seconda parte della trasmissione. Intanto il traffico. Focus Economia. Ancora molti sms vedo sulla vicenda greca. Qualcuno paragona Tsipras a una versione moderna del cavallo di Troia addirittura. Qualcun altro scrive: speriamo che finalmente Tsipras e i demagoghi europei abbiano capito la differenza che esiste tra lo stare all'opposizione e stare al governo. Qualcuno si chiede a cosa sia servito il referendum greco. Qualcun altro dice: ma con 5 anni di trasferte di tutti i politici europei non l'avremo già pagato il debito greco? Beh, non è una cattiva valutazione, Forse bastano solo i vertici di quest'anno. Si scherza naturalmente, certo è stata un po' la nostra ossessione in questo periodo. Prendiamoci un attimo di pausa dalle vicende greche per parlare di un settore industriale importante di questo paese, quello dell'edilizia, e saluto Paolo Buzzetti, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Buzzetti, buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Allora, c'è tra i tanti dati che avete fornito oggi, molti che fotografano la crisi, molti che fotografano il fatto che la crisi persiste anche nel 2015, ce n'è uno che però ha sollevato particolarmente la mia attenzione, sul quale ho puntato i riflettori, perché dopo tanto cinema che abbiamo fatto e che è stato fatto un po' da tutti i governi sui famosi pagamenti della pubblica amministrazione, ossia in 60 giorni non vi preoccupate, è arrivata la legge, abbiamo trovato il meccanismo giusto, state tranquilli, a voi risulta l'esatto contrario. Sì. Cioè, risulta questo, che in realtà bisogna dire che 7 miliardi furono già da un paio di anni fa, con una proposta che venne verificata anche a livello europeo, di come aveva avuto la Spagna un una tantum, furono pagati 7 miliardi di arretrati al mondo delle imprese edili, e quello fu un fatto molto positivo. Peraltro bisogna dire che la constatazione oggi è che c'è un ritardo di 6-7 mesi costante nei pagamenti della pubblica amministrazione. Naturalmente non si può fare di un erbo un fascio, ma è il ritardo medio che rileviamo nei pagamenti dei lavori pubblici, ai quali si aggiunge la grave vicenda della split payment, che sarebbe sostanzialmente il non pagare l'IVA insieme al pagamento della fattura, ma posticiparlo, si dice oggi, a 3 mesi, ma sarà sicuramente di più il tempo che passerà alle imprese, e questo significa sostanzialmente un ritardo serio e grave dal punto di vista della liquidità, soprattutto nella filiera delle costruzioni, soprattutto per le più piccole imprese. Quindi questo elemento dei pagamenti, che pur abbiamo sollevato giustamente per primi perché i più colpiti ormai da tanti anni, in fondo rimane non risolto veramente, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia, per quanto riguarda le imprese di costruzione. Mi dica, sono pagamenti nuovi o arretrati o un misto di tutti e due? Guardi, sono il ritardo, c'è anche quando noi diciamo che c'è un ritardo ancora, mi faccia dire una cifra di 9 miliardi, nasce dal fatto che è una somma di alcuni pagamenti ancora arretrati che vengono dagli anni precedenti, che non sono mai stati risolti, e una parte invece che vengono dai nuovi ritardi di pagamento, cioè dei lavori in corso adesso in cui ci si ritarda, si ritarda sempre di un 6-7 mesi, quindi è la somma dei due, dove l'intervento a Cassa Depositi e Prestiti purtroppo non ha potuto, sul piano dei pagamenti per il patto di stabilità e per varie questioni, non ha potuto agire nel campo dei lavori pubblici. Quindi è ancora una sofferenza, per questo l'abbiamo voluta ricordare, pur se dobbiamo dire che un miglioramento c'è stato e che, come le dicevo prima, una parte delle somme è stata pagata. Poi tra l'altro nei contratti si scopre spesso che le amministrazioni chiedono nei loro contratti particolari di non pagare in 60 giorni, che ci sono elementi per cui questi ritardi, mi creda, producono anche licenziamenti e entrata in difficoltà di aziende, perché certo, comunque se lei mi toglie liquidità per un numero di mesi così consistente, quando non parliamo di anni, in effetti poi si sente pesantemente, quindi questo è un problema non ancora risolto, purtroppo. Quando lo abbiamo raccontato spesso, magari quando arriva il pagamento l'azienda è già bella che chiusa, bella si fa per dire, evidentemente. Esatto. Allora, veniamo alla situazione congiunturale del settore, in particolare questo 2015, che a differenza di altri settori dei quali ci siamo interessati e ci siamo occupati nei mesi scorsi, voi non vedete comunque positivo, mi sembra di capire. Cioè, guardi, ci sono stati dei segnali oggettivamente di miglioramento, ad esempio c'è stato un 3-4%. Anche perché, mi scusi, andar peggio, prego. Buzzetti era difficile. Lei dopo. Purtroppo ha ragione, andar peggio è molto difficile, i dati purtroppo dall'inizio della crisi sono di 800.000 addirittura posti se si considera tutta la filiera delle costruzioni. Abbiamo visto chiudere tra piccolissime e grandi aziende 80.000 aziende, abbiamo visto diminuire il credito, abbiamo visto che mentre è continuato negli enti locali l'aumento della spesa corrente, la spesa cosiddetta in conto capitale, quindi per i lavori per esempio pubblici di una manutenzione di una strada, si è ridotta del 47% pure in questi anni di crisi. Quindi va malissimo, la tempesta perfetta si è fermata con la tassazione sulla casa. E con quello che è avvenuto sulla casa e contemporaneamente sui lavori pubblici che sono scesi negli investimenti oltre il 50%, c'è stata la tempesta perfetta. Detto questo, diciamo che la condizione di un leggero risveglio per le condizioni macro e per gli interventi anche del governo c'è stata, vale a dire c'è un più 3,4% di contrattazioni, di compravendita, voglio dire, nelle case, c'è stato un incremento del 22% in valore degli appalti pubblici, c'è stato un aumento delle ore lavorate e registrate dai casserini, quindi bisogna dire che qualcosa è accaduto e tra l'altro il prodotto dei mutui è molto migliorato in questi ultimi tempi per una serie di iniziative, quindi teoricamente lei se volesse comprare una casa oggi le condizioni sono le migliori, con tasso di interesse basso, i mutui che sono un prodotto buono e con le case sono scese del 20-30% di valore, certo, in molte situazioni. Però quello che c'è è che è una piccola controtendenza, quindi si è fermata la discesa, ma qui diciamo noi che ci vuole una botta di acceleratore seria se vogliamo far ripartire l'edilizia e se vogliamo sicuramente anche far ripartire il mercato interno. In questo senso, sì, ciò che sta dicendo il governo lo condividiamo molto e la necessità è che venga fatto subito, cioè vale a dire quando si parla di un piano di opere pubbliche finalmente che siano innanzitutto di manutenzione, no? Di sesto geologico, scuole, manutenzione delle strade di cui molte delle nostre città hanno bisogno e si parla di opere utili, cioè di opere di collegamento importanti che sia la Napoli-Bari, che siano del Brennero, che sì, sia voi vi riferite sia alle grandi sia alle piccole, appunto la sistemazione della strada piuttosto che la costruzione di quella nuova, insomma, della grande arteria, cioè la manutenzione, anche l'ANAS e le ferrovie si stanno molto impegnando in questo, quindi nei 20 miliardi che dice il governo ce ne sono molti che sono dedicati alla manutenzione sia appunto diciamo scuole di stesso geologico, sia di strade sia di ferrovie, e poi della realizzazione o completamento di alcune opere utili dal punto di vista del collegamento siamo d'accordissimo e questo sarebbe già un elemento importante, così accanto a una diminuzione della tassazione che riteniamo sulla casa, avendo colpito la parte di proprietà ed essendo aumentata del 143% in questi ultimi anni, molto condiziona diciamo un normale meccanismo. Sì, tra l'altro stanno circolando ipotesi che il governo abbia intenzione di rimetterci mano. Allora noi diciamo questo, che se ci fosse la capacità di spendere di questi 20 miliardi, dico 10 l'anno prossimo, è cosa che in Francia e Spagna è accaduto, e se fossimo in condizione di dare una chiarezza alla local tax finalmente che sia chiara e possibilmente diminuire un po' questa pressione, io le devo aggiungere anche sui beni strumentali, i capannoni. Abbiamo 5 secondi, Buzzetti. Produrrebbe sostanzialmente, a nostro avviso, 2 punti di PIL in più e 200.000 posti di occupazione in più. Finalmente una spinta di fiducia e di positività a tutto il paese. La ringrazio, grazie al presidente dell'ANCE Paolo Buzzetti, ci risentiamo tra poco di nuovo con la Borsa e la Grecia. State ascoltando un programma offerto da... Ciao, sono Alessandro Del Piero, il mio segreto a 40 anni? Bevo Oliveto, acqua della salute. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms. Mentre intervistato dalla BBC, Kostas Botopoulos, che è il presidente della Commissione sul sistema finanziario, dice: le limitazioni alla libera circolazione dei capitali in Grecia resteranno in essere per settimane, forse per mesi. Il primo passo sarà riaprire alcune funzioni commerciali delle banche e della borsa a partire da giovedì o venerdì. Tra poco torneremo sulle specifiche dell'accordo e sugli strascichi che lascia, soprattutto a livello politico europeo. Intanto andiamo a vedere come hanno reagito i mercati. Hanno reagito bene, anche se non straordinariamente bene. Da dire che la settimana scorsa avevano scommesso ampiamente sull'accordo, un punto percentuale di guadagno per il FTSE MIB, un 1,05 per il FTSE OSHARE, meglio ancora Parigi, quasi 2 punti percentuali di guadagno, e Francoforte 1,5 punti percentuali. Ceo Condina, Radio Corriere del Sole 24 ore, buonasera. Ciao Simone, buonasera a tutti. Allora, il fatto che le borse abbiano festeggiato, ma poi non così tanto, dipende solamente da quanto hanno corso la settimana passata o dipende anche dal fatto che è un accordo che in realtà presenta ancora una serie di incognite, quindi un minimo di cautela c'è? Beh, direi entrambe le cose. Venerdì i rialzi erano stati davvero significativi, quindi oggi era lecito aspettarsi, nel caso l'accordo fosse andato a buon fine, così è stato, dei rialzi ma un pochino meno forti. Però è anche vero, è vero anche l'altro concetto che tu esprimevi: da qui a mercoledì Atene dovrà insomma dare delle prove concrete del proprio impegno, dovrà implementare determinate riforme, quindi non tutta la strada è stata compiuta, anzi la sensazione è che siamo non all'inizio ma quasi, e quindi insomma i mercati vogliono vederci chiaro, mettiamola così. Complessivamente positivo il settore bancario, se si fa eccezione per il Monte dei Paschi che cede l'1,45%. In cima al listino però c'è Ferragamo che guadagna il 4,10%. Assolutamente, direi che oggi i settori che sono andati meglio sono stati quelli della stati la moda e il settore finanziario e le banche. Per quanto riguarda Ferragamo c'è un report favorevole di Credit Suisse ma anche di Goldman Sachs. Diciamo, la teoria di questi broker è molto semplice: nelle ultime 2 settimane il titolo ha perso molto anche rispetto ai, diciamo, ai competitor. Ricordiamo che Ferragamo è molto esposto in Asia, c'erano anche dei timori legati alla bolla borsistica cinese, quindi dal momento che è sceso, adesso è il momento giusto per ripartire. Anche per Tod's vale lo stesso discorso di Ferragamo, infatti anche Tod's oggi guadagna il 3,1%. Dicevi bene le banche, infatti Mediolanum fa più 3,3% in chiusura, la Popolare di Milano più 2,9%. Ecco, per quanto riguarda le popolari, visto che le citavi, no? C'è la Popolare di Milano che guadagna il 2,89%, ci sono anche altre motivazioni in realtà? Sì, secondo indiscrezioni di stampa, in questa settimana dovrebbero essere nominati gli advisor, i consulenti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e del Banco Popolare, advisor che dovrebbero disegnare un po' le strategie future, leggi le possibili aggregazioni di questi istituti. Insomma, torna il fermento sul settore delle popolari e quindi è ovvio che ciò si rifletta sulle quotazioni di borsa. Popolare di Milano è la migliore, più 2,9%, il Banco Popolare fa più 2,4%, Biper, ovvero la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, più 1,38%. Tra le non banche popolari, bene Intesa San Paolo che guadagna l'1,9%, Unicredit l'1,63%, come già si diceva a proposito in generale delle banche, Telecom Italia più 1,26%. Assolutamente, Telecom Italia è ai massimi da 6 anni, anche qui c'è un mix di fattori che spinge il titolo, ci sono voci di un possibile ulteriore rafforzamento, in particolare di Vivendi. Attualmente Vivendi è da poco salita al 14,9% e già nei giorni scorsi si era prefigurata la possibilità che salisse al 22%, e poi c'è ancora l'avanzamento delle trattative per la fusione tra Wind e H3G, una fusione che è veramente sul tavolo da molto tempo, sembra che si stringa finalmente sull'operazione, e anche questo ovviamente dà benzina al titolo di Telecom che fa parte dello stesso settore. Tra i titoli migliori abbiamo detto Ferragamo, abbiamo detto Mediolanum, abbiamo detto Toz, la Popolare di Milano, ma anche Iux, un guadagno del 2,8%, e visto che parlavamo di settore delle costruzioni, anche Buzzi Unicen, che guadagna il 2,62%, Saipem più 2,5%. Su Saipem c'è un po', insomma, era andata male alla fine di settimana scorsa quando era stata ufficializzata sostanzialmente la rescissione del contratto su South Stream, oggi un piccolo recupero, ma il titolo resta su quotazioni molto basse e presto o tardi Eni dovrà poi prendere una scelta strategica definitiva sulla società. Ci spieghi, se c'è qualcosa da spiegare, il fatto che Monte dei Paschi è la peggiore del listino, meno 1,45%? Ma diciamo che è parecchio tempo che gli operatori sono freddi sul Monte dei Paschi. C'è anche un tema, a mio parere, di indecisione sui vertici, non si capisce ancora chi sarà il futuro, il futuro presidente della banca, lo stesso Profumo ancora non fa chiarezza su quello che sarà il suo percorso, e comunque gli operatori vogliono vederci chiaro su come potrà ripartire la banca dopo l'ennesima ricapitalizzazione. Posso desumere che è da questo che il titolo comunque continua a essere penalizzato. Negativa anche Prismian, giù di 0,5%, Seti Microelectronics altrettanto, A2A giù dello 0,35%, Atlantia dello 0,22%, Campari dello 0,1%, così come CNH. Mediaset chiude in perfetto pareggio, appena sopra la parità Ansaldo, STS, Snam, così come Eni e Ternaval. Duty Free che guadagna lo 0,2%, così come Enel Green Power, Exor 0,5% di guadagno, così come Finmeccanica. Mediobanca su dello 0,6%, dello 0,7%, Generali, dello 0,8 Ubi, Pirelli e Azimut, sopra il punto percentuale di guadagno Enel, Tenaris, Telecom Italia, come si diceva, Luxottica che guadagna l'1,37, e poi gli altri titoli dei quali vi abbiamo raccontato, dai quali mancavano forse Unipolsai, 1,5% di guadagno, e Autogrill l'1,6, insieme a Fiat Chrysler che guadagna l'1,7%. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, e buona serata. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico, ci ritroviamo subito dopo, ritorneremo sul tema della Grecia, abbiamo affrontato nella prima parte le questioni più di politica interna della Grecia stessa, che cosa succederà adesso, che cosa succederà in Parlamento. Noi adesso andremo invece a toccare quello che succede in Europa, perché come si diceva, gli strascichi di quello che è avvenuto, della durezza che c'è stata nei confronti di Atene, probabilmente si faranno sentire a lungo. Iniziamo da lei, dal volto duro di tutta questa trattativa, spinta in parte, ma forse non aveva nemmeno bisogno di essere spinta, dal suo ministro delle finanze, Wolfgang Schäuble. Angela Merkel, a fine della trattativa, eccola qua. Posso assicurare che i negoziati sono ripartiti con piena convinzione. La parte iniziale del nostro documento afferma che la fiducia può essere ripristinata e che la Grecia deve assumersi la responsabilità di votare in Parlamento e di attuare tutto quello che abbiamo deciso qui. La Commissione europea ha insistito sul fatto che non avrebbe accettato una Grexit e la Grexit non ci sarà. E dunque, per quanto riguarda la sostanza, siamo soddisfatti del risultato che siamo riusciti a raggiungere. Soddisfatta lei, a quanto pare insoddisfatti altri, non i leader europei, almeno non nelle dichiarazioni, per così dire, di facciata. Traffico e ne parliamo. Focus Economia. C'è anche il presidente dell'Eurogruppo, Dijsselbloem. Ora l'accordo va al Parlamento greco, che deve approvarlo e dare il via libera anche le prime misure entro mercoledì, perché questo si richiede alla Grecia, entro 48 ore, di approvare una serie di misure. Revisione dell'IVA, parziale riforma del sistema pensionistico per renderlo sostenibile, indipendenza dell'istituto di statistica, tagli semiautomatici alla spesa. Sentiamo proprio la voce del presidente dell'Eurogruppo. All'Eurogruppo continueremo il lavoro. Come sapete, abbiamo già un Eurogruppo questo pomeriggio. Da parte greca, nei prossimi giorni, martedì e mercoledì, si dovrà legiferare sull'intero accordo. Ci vorrà l'avallo del Parlamento ellenico, ma anche i primi atti legislativi indicati nell'accordo. Una volta che è stato compiuto questo lavoro da parte del Parlamento greco, ci sarà un Eurogruppo, probabilmente mercoledì, e sarà l'avvio per gli altri parlamenti nazionali che cominceranno il loro iter. Ciò accadrà tra mercoledì e venerdì, ma non posso essere preciso perché i parlamenti nazionali sono sovrani e decideranno loro il calendario. E una volta che i parlamenti nazionali avranno affrontato la questione, ci sarà una decisione più formale da parte dell'Eurogruppo e del Consiglio dei governatori dell'ESM, con una decisione sulla base dell'articolo 13.2 del trattato, che dovrebbe permettere loro l'inizio di negoziati formali. Altro, Dijsselbloem è stato appena rieletto per il secondo mandato alla presidenza dell'Eurogruppo. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Un ascoltatore ci scrive adesso: questa capitolazione imposta a Tsipras manda in frantumi il mito di un'Europa unita e pacifica, di un'Europa della solidarietà e del compromesso. Che dici? No, direi che non sono d'accordo. L'accordo è stato difficilissimo, ma alla fine, sia pure in una situazione dove la Grecia è diventata una sorvegliata non speciale ma specialissima, dove di fatto è messa sotto tutela, però in questo tipo di situazione alla fine ha ottenuto gli aiuti senza i quali non avrebbe potuto in nessun modo evitare il disastro. Gli aiuti non sono da poco, gli aiuti sono 86 miliardi, a cui andranno aggiunti gli aiuti di emergenza per altri 12 e a cui andranno aggiunti anche 35 miliardi che verranno dai fondi della Commissione europea, proprio per cercare di aiutare il paese a riprendersi. Ci sono state sicuramente delle misure che non è che assomiglino, che sono diciamo la prova della capitolazione del paese, però io trovo che in certi casi è meglio la capitolazione che il suicidio. Quindi voglio dire, oggi la Grecia, se affronterà questo difficile periodo che le sta davanti, che è quello di fare riforme che non ha mai fatto nell'ultimo quinquennio, nonostante l'Europa gliel'avesse chiesto, io credo che se le farà dopo un periodo certamente non facile di qualche anno, penso che sarà recuperata alla crescita e alla normale dinamica economico-politica di qualsiasi paese dell'euro. Detto questo, chiaramente voglio dire, l'Europa che noi conosciamo e che abbiamo accettato è l'Europa delle regole e questo non, diciamo, non, la Germania non transige, ma nemmeno gli altri e nemmeno noi stessi italiani, che abbiamo prestato alla Grecia 40 miliardi e che certamente non avremmo voluto vederli dissolvere nel default o nella scelta di un'altra soluzione, come per esempio l'uscita dall'euro. E qualcuno segnala anche questo rischio, Adriana, che a livello più strettamente politico, quella che una parte della società europea vedrà da fuori, insomma, magari anche semplicemente senza saperla leggere fino in fondo, come una sorta di umiliazione del governo greco, non spinga ad un ulteriore allontanamento, per così dire, dall'Europa. Tu lo intravedi questo rischio? Io lo vedo questo rischio, lo vedo non tanto come un sentimento anti-europeo, ma come un sentimento anti-tedesco. Diciamo, la Grecia ha dovuto ingoiare delle condizioni draconiane, però non aveva alternative. Tra l'altro non dissimili, anzi peggiorative rispetto all'accordo sul quale ha fatto votare i suoi cittadini, questo insomma va anche chiarito, prego. Quello di sicuro, ma questo vuol dire è l'unica vera responsabilità che ha Tsipras, cioè Tsipras non ha accettato l'offerta che gli era stata fatta e non ha evitato di far scadere il famoso programma di aiuti, il secondo piano, che valeva fino al 30 di giugno, e quindi diciamo ha fatto una scommessa che poi l'ha portato a pagare molto di più il salvataggio. Questa non è colpa della Germania, questa è l'unica vera colpa che ha avuto Tsipras, probabilmente per la sua inesperienza. Ma detto questo, diciamo, le condizioni che ha posto la Germania, appoggiata dagli altri, perché l'accordo è stato approvato all'unanimità, non ce lo dimentichiamo. Sì. Secondo me certamente alimenterà in Europa un sentimento antitedesco molto forte, nel senso che la Grecia è stata veramente impacchettata in un periodo di austerità e soprattutto di sovranità limitata, che per certi versi diciamo fa parte della scelta della moneta unica, ma per altri versi è pesantissimo in un paese che arriva da 5 anni di recessione pesante, sì. Ha perso il 25% del PIL, 25% sì, tra l'altro nel insomma, è un paese a proposito di questo Adriana, segnaliamo come nel documento è previsto che le misure prima di passare dall'approvazione dello stesso governo e del Parlamento e prima di passare all'esposizione all'opinione pubblica devono passare esattamente dalle cosiddette istituzioni europee, che adesso torneranno la troica, certo, sostanzialmente, certo, la quale tornerà ad Atene. Cioè, voglio dire, non si è risparmiato niente alla Grecia, intendiamoci. L'unica cosa, gli vengono dati dei soldi, questo sì, e viene eliminato quello che invece era nella bozza originaria, cioè il proprio ricatto esplicito: se non prendete questo avrete Grexit, cioè verrete sbattuti fuori. Ora, Grexit non c'è semplicemente perché giuridicamente non avrebbero potuto sbatterli fuori senza il loro consenso. Quindi diciamo la Grecia si è salvata per il rotto della cuffia. Il modo con cui è stata salvata non è certamente il modo che noi potremmo immaginare, come dire, nell'ambito di uno spirito di famiglia dove si perdona il figlio al prodigo. Sì. No, niente di tutto questo. La durezza con la quale la Grecia è stata trattata, sono convinta, avrà delle conseguenze sulle dinamiche democratiche europee, sì, e anche sulla possibilità, diciamo, di rafforzare la governance dell'Eurozona, nel senso si parla molto, no, della necessità, sì, di creare la gamba politica e la gamba economica più integrata, certo, dell'Unione Monetaria. Ecco, io penso che molti paesi, dopo aver visto diciamo come è stata trattata la Grecia, avranno delle esitazioni, ma sì, al tempo stesso devo anche dire che alla fine ha, sì, prevalso la ragione, sì, perché un Grexit avrebbe messo veramente in difficoltà il futuro dell'Eurozona. Sono convinto. Allora, Adriana, io ti devo fermare, ti ringrazio per il tuo commento e la tua analisi, e noi dobbiamo veramente chiudere. Ci si sente domani alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24. La passione si sente.